later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli la storia con la S maiuscola è ferma da un pezzo, ma quella con la S minuscola anche, K e Drago sono preda dei desideri. Pensare, Drago, che immaginavo di vivere la mia maturità in un posto bello, magari anche fuori mano, che ne so, bello però, sul lago, capito, al mare, in mezzo alla natura. E invece? Invece in mezzo alla natura ci sono, ma che natura è? Polli in batterie, cacche di gallina? Dai, non è mica questa la natura che intendevo. Beh, K, avresti dovuto formulare con più convinzione il tuo desiderio quando vedevi una stella cadente. Ma come? Ma tu che desideri formuli quando vedi una stella cadente? Nessuno. Io penso solo al casino che sta succedendo in quel sistema solare, con la stella che collassa e i pianeti che restano al buio. E poi mi viene la malinconia pensando che un giorno anche il nostro Sole farà quella fine e che quando arriverà a quel punto non ci saranno tanti desideri da esprimere, no? Io penso a queste cose qui. Così, quando tu sei lì che guardi una stella cadente con una bella ragazza stretta a te, tu pensi queste cose. Bella ragazza? Quale ragazza? Chi non ricorda meravigliosi momenti di sogno e consolazione quando 10 di agosto di ogni anno tutti quanti si andava su fino ai 3000 con freddo cane e ghiacciaio intorno per rivedere stelle cadere? Quanti desideri espressi da ogni singolo bambino presente al toccante evento astronomico. Ma oggi, se sali a 3000 metri, fa caldo e non c'è più di ghiacciaio, e anche lì trovi turisti di Toscana che parla di voce alta, spaventa di stampecchie e di marmotte e fa barbecue con amici rumorosi come lui, tutti rumorosi, italiani rumorosi. Ach du Himmel! E anche stelle sembrano non piacere di turisti toscani e cadono molto meno di una volta. E stai tutta sera con testa alta e non vedi più stelle. Keine Sterne, nessuna stella di nessuna parte. Anche perché ho dimenticato occhiali. Und senza occhiali io non vedo niente. Colpa di toscani comunque, anche per occhiali. Sì, ma quando si guardano le stelle cadenti si esprime un desiderio, no? Bene, ma tu ti sei mai chiesto che cos'è il desiderio? Il desiderio è l'evocazione di qualcosa che ci manca. Bravo, e quindi? E quindi cosa? Se il desiderio si avvera? Sei più contento perché sei più completo. Hai riempito una casella che fino a quel momento era vuota. Sì, ma a quel punto l'oggetto del desiderio smette di essere un oggetto del desiderio e diventa... E diventa tua moglie, capo. Ma intanto, nei disertati sotterranei della fabbrica di polli, dove l'aria è spessa come una bistecca alla fiorentina, avvengono cose che nessun cervello umano potrebbe riuscire a comprendere. Cose come... le avventure de... la cavia da laboratorio! La fabbrica di polli. In effetti, K, il desiderio non ha bisogno di realizzarsi per essere tale, anzi, non deve assolutamente realizzarsi. Ma perché? Scusa, metti il caso che tu desideri tanto un'automobile, no? Ma proprio tanto, tipo che quando vedi un altro che ha quel modello di automobile, ti sta subito simpatico perché pensi che sia uno che in fondo è simile a te, perché ha scelto la stessa macchina, capito? No, ma guarda che a me non sarebbe simpatico, anzi, io lo invidierei, mi starebbe molto antipatico. Vabbè, ma è lo stesso, metti che ci sia questa macchina che ti fa impazzire, no? E che finalmente arriva il giorno in cui te la compri, va bene? Sì. Allora, non è più un desiderio, però è qualcosa che hai, che usi, che poco per volta diventa tuo e che tu dai per scontato. Appunto, una moglie. Sì, ma con le marce però. Anche con le ruote. Che stronza! Io il più bello, il più elegante, il più sinuoso essere volante, io il più bianco, lucente, intrigante, il più perfetto con l'assetto di un aliante, ridotto così come cadavere spiacciato, così come animale contagioso, ammalato, ero un sogno, ero il cigno più bello del mondo, sogno infranto. E questo stanotte il mio canto, e questo stanotte il mio canto. La fabbrica di polli. Qui la stazione di Radio Arkmanes, l'unica radio libera liberata da tutto il Medio Oriente. Cronica interna. Generale Sparhare, in visita ufficiale di ospedale militare, ha infettato l'intero reparto con rara malattia venerea tipica dei soldati che hanno combattuto in altipiano di Arkhmadovankhmad. Ospedale raso suolo su ordine del generale con tutti i malati dentro. Igiene e sicurezza sono parole di chiave del nostro amato generale che prosegue visita in tutto il paese per dispensare malattia venerea. Ops, ratifico. Dispensare serenità e speranza a tutti i cittadini di Grande Arkhmanistan Unito. Pollo, ma cos'hai? Ma che faccia? Mi sono drogato pesantemente. Ah, sì? Ah, sì. Come stai? Bene. Credo che avrei bisogno di una bustina di zucchero, se no svengo. Una bustina di zucchero. E dove la troviamo? Andiamo a cercarla, no? Vabbè, ma se tu svieni, scusa. Ma no, vedrai che va tutto bene. Perché quando sei pesantemente drogato, non è che ti metti tanto a pensare se una cosa riesci o non riesci a fare. Ah no? No, intanto ci provi, no? E poi vedi come va a finire. Allora bisogna trovare uno spaccio aperto. Uno spaccio? Ma io ho chiesto lo zucchero, non droga. Quello l'ho già messa tutta. L'ho già messa tutta. Ma nel senso di bar, il bar. Ah, nel senso di bar. Per forza. No, ma io comunque lasciatemi qui. No, perché per me non c'è più niente da fare. Però voi continuate pure, eh? Ma continuiamo a fare cosa? Polo, stavamo cercando una bustina di zucchero per te. Ma se poi tu ti fermi è inutile, Comunque è una zoletta, Va bene anche quella. Sì, vabbè, ma K, lasciamolo qui, ormai non c'è più niente da fare per lui. Beh, questo l'ho già detto io, L'aveva già detto lui. Però una bustina di zucchero, no, se la trovate, però va bene anche la zoletta, Che cosa succederà adesso? Il pollo in sbattimento collasserà definitivamente sul campo di battaglia? E Capo e Drago che cosa faranno? Lo abbandoneranno o lo porteranno con sé caricandoselo in spalla? Lo scoprirete sicuramente sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo cameratesco allestimento de... La fabbrica di polli produce... Non muore quasi mai. programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it. barlumen.com.